I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Come sempre un andamento a strappi, da stop and go. Avevamo appena finito di esultare per l'aumento in attesa del PIL del terzo trimestre con un più 0,3% che faceva ben sperare per una chiusura d'anno, magari un po' al di sopra delle attese, ma poi ieri una nuova doccia fredda, sempre dall'Istat, che ha rivisto al ribasso le stime per quest'anno e anche per il prossimo anno. Così, se non ci saranno sorprese, il PIL del 2016 dovrebbe chiudere a più 0,8% e non più 0,9% o di più, come faceva presagire la buona performance proprio del terzo trimestre, mentre quello del 2017 finirà a più 0,9%, sempre un po' al di sotto delle attese con cui si è calibrata anche la stessa legge di bilancio. C'è un dato importante però: gli investimenti quest'anno segneranno più 2%, che è una buona performance, destinata a migliorare ancora l'anno successivo, che dovrebbe chiudere con un più 2,3%, così crescono anche l'occupazione e la domanda interna, che serve in questa fase a compensare il cattivo andamento della domanda estera, che tra l'altro in tempi di trumpismo potrebbe essere destinata nel medio periodo a contrarsi ancora, nonostante sia molto favorevole la quotazione del dollaro, che favorisce per adesso proprio gli esportatori del Made in Italy. Ciò che conta è che le politiche di vantaggio fiscale per le imprese stanno dando buoni frutti e le aziende ora investono in macchinari e in innovazione. Solo così la ripresa si può irrobustire e dare corpo anche a un aumento importante dell'occupazione e dei redditi. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Prima c'è stato il rally dei titoli di ricostruzioni, visto che il nuovo presidente Donald Trump viene proprio da lì. Poi in borsa c'è stato il rally dei titoli farmaceutici, visto che sempre il nuovo presidente Donald Trump ha detto che smonterà la riforma sanitaria di Obama, che appunto aveva tagliato gli affari e i profitti delle società farmaceutiche. Adesso è arrivato al terzo tassello, ovvero la difesa, il terzo cardine della politica economica di Trump e soprattutto della politica internazionale. Sembra infatti posizionato per crescere più di ogni altro settore, almeno è questo quello che pensa la borsa, dove tutti i titoli del comparto degli armamenti, compreso anche quello aeronautico e soprattutto la Boeing, stanno salendo tra il 3, il 4, il 5, anche il 6% in questa giornata di nuovi record di Wall Street. Ma che cosa c'è dietro le armi? Il fatto è curioso, perché in realtà, se andiamo a guardare le cifre, la spesa per il 2016 in armamenti degli americani raggiungerà a fine anno un nuovo record storico, 596 miliardi di dollari. Pensate che si tratta di una cifra che è superiore alla somma della spesa in armamenti dei 7 paesi che vengono dopo nella classifica delle armi, compresa la Cina, l'Arabia Saudita e persino la Russia. È un fatto curioso, perché è stato lo stesso Trump a dire che la spesa militare americana doveva riconciliarsi con le caratteristiche geopolitiche e soprattutto ridursi, quantomeno per chi non è alleato degli americani, in Europa. Fatto sta che la borsa comunque continua a credere che tutto ciò che ha promesso Trump nella campagna elettorale sarà quello che si avvera, anche se nel caso della difesa Trump dimentica che c'è una legge che è stata votata nel 2011 che mette un tetto alla spesa militare, e questo tetto è già stato raggiunto. Altre speranze per gli incrementi, insomma, restano solo in borsa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.